ne leggo pure sui giornali. Noto mani nere, grigie, sporche. Guarda come sono tutte uguali. Che kuma le mogli en balla, oh. Che kuma jumun en bibin plifo. Tu resti concentré dans un lame. Sale poumon dans ciel et la terre. A ciel, c'est toi qui vive en balla, oh. A cause ton en bibin plifo. Ci sont tout du monde à tout lame. Lame couille non kuma. C'est la terre guette. Kuma resté dans la bien scène. Il n'y pas le vide, on sait pas les tombinerai. Ton destin. Un bâtiment dans l'air, t'en rester sans rien pour vivre. Dix cinq couteaux et dix sans du monde pour écrire. Pour t'oublier dans la vie, mais trop difficile. Garantie qu'il t'en capa au gain tout qu'il s'ose pour vivre. Un stiècle en même temps, t'en briller, t'en bondier. T'en la mer reste non, t'en pas capa au sens et non, camarade. T'en fin fan, t'en date, sauce et non. Pour rester à Zodji pour tous les temps. Bien de l'homme, pleurer jusqu'à ton l'amour. Ta belle vie sans te pleurer quand t'en fous dans la tienne, non. Sono solo delle mani sporche e ne leggo pure sui giornali. Noto mani nere, grigie, sporche. Guarda come sono tutte uguali. Sono solo delle mani sporche e ne leggo pure sui giornali. Noto mani nere, grigie, sporche. Guarda come sono tutte uguali. Hai mani sporche di fango per superare il tuo rango. Hai fatto più defunti che in un film di Rambo. Quattro mani sono sporche, tra di loro sono unite. Chi le chiama pulite tiene pepite come loro. Hanno peli ingiallite, oltre a dita callute con le quali fanno ferite solo per un pugno d'oro. E queste mani non conoscono l'acqua, creano solo l'immondizia e sporcizia dentro una cella. Unte, congiunte, lucidate con la lacca. Restano più nere del cappello di un balilla. C'è chi le lava e le pulisce e poi le sporca. Chi le usa per colpire, chi invece l'anima tocca. Chi per tappare la bocca delle persone che dicono verità ma senza nascondere il nome. Mani comandate da squilibri personali che cercano soltanto di annullare ciò che vali è. Fregano fratelli, sfregano polpastrelli. Causano rovine come guerre mondiali per me. Sono solo delle mani sporche e ne leggo pure sui giornali. Noto mani nere, grigie, sporche. Guarda come sono tutte uguali. Sono solo delle mani sporche e ne leggo pure sui giornali. Noto mani nere, grigie, sporche. Guarda come sono tutte uguali.